versione di Oscar Giannino. Buon pomeriggio cari ascoltatori di Radio 24, 16:30 primi 28 secondi in diretta qui da Milano. Oscar Giannino vi saluta, vi ringrazia, vi ricorda l'indirizzo versione di Oscar @radio24.it per opinioni, pareri, critiche e soprattutto proposte anche di temi di trasmissione, voi stessi che raccontate una storia che vi fa imbizzarrire o che volete testimoniare invece per cose che funzionano in Italia, ce ne sono. Vi dico subito di cosa parliamo per stimolarvi a vedere se volete dare un'opinione all'800240024 per intervenire in diretta, 349-238-6666 per gli sms. La domanda è semplice: siete favorevoli o contrari a vietare in Italia le prospezioni, cioè le ricerche e le estrazioni di petrolio, gas? Perché questa domanda? Perché ieri nella distrazione generale dei grandi media, che sono tutti concentrati sulle vicende delle banche e così via, le polemiche scatenate, che per carità sono molto importanti, però pochi si sono accorti di una decisione del governo nel corso dell'esame parlamentare delle misure della legge di stabilità che ripristina il divieto di ricerca e produzione di idrocarburi in Italia anche entro la fascia delle 12 miglia marine, che era stata modificata, quindi era stato concesso quindi di effettuare ricerca ed estrazione di idrocarburi invece con la legge Sblocca Italia. Ieri il governo ha cambiato idea perché nel frattempo, ce ne eravamo già occupati in una puntata, 10 regioni, cioè Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Liguria, Marche, Molise, Puglia, Sardegna, Veneto, hanno depositato in Cassazione lo scorso settembre 6 quesiti referendari su alcune norme proprio dello Sblocca Italia che riguardavano la ricerca e l'estrazione di petrolio nel nostro paese. Di queste 10 regioni, 8 sono a guida PD, poi c'è la Liguria a guida Toti Forza Italia e il Veneto a guida Lega Zaia. Di fronte alla valutazione che questi referendum potessero essere accolti, la pronunzia sulla accoglibilità dei quesiti depositati è attesa tra febbraio, marzo, al massimo aprile, il governo ha evidentemente deciso di non potersi permettere, diciamo così, uno scontro interno al PD così duro, visto che 8 governatori su 10 sono del PD, sono praticamente tutti quelli del centro-sud, escluso il Lazio, e quindi ieri 4-4 ha deciso che si ripristina questo vincolo. Questo vincolo nasceva, è una storia un po' complicata per così dire, tento di riassumervela. È nato nel nostro paese nel 2010. Nel 2010, infatti, all'allora ministro Prestigiacomo, quindi stiamo parlando governo di centrodestra, a seguito delle polemiche, no? Che erano state suscitate da un incidente nel Golfo del Messico nell'aprile del 2010, mentre era tra l'altro scoperta la carica del ministro dello sviluppo economico, Scajola si era dimesso, la Prestigiacomo in Parlamento, con il consenso del Parlamento, approvò questo limite che poi lo Sblocca Italia con l'articolo 38 aveva modificato. Allora, i quesiti delle regioni erano, questi 6 quesiti sono in particolare per una buona parte negano innanzitutto il riaccentramento della decisione da parte del governo, negano il fatto che le nuove cose che erano consentite, i tempi per la valutazione di impatto e così via, possano ricadere alla luce della Costituzione attuale, che è in via di essere riformata, ma è attualmente ancora quella vigente, possano ricadere nella capacità decisionale centralizzata da parte dello Stato. Fatto sta che ieri questa decisione è stata assunta dal governo ed è una decisione che ha un impatto enorme sull'economia italiana, cioè in realtà ha un impatto in un momento superiore alla vicenda delle quattro banche risolte di cui stiamo parlando, che appassionano tanto e spaccano la politica italiana, giustamente, perché chiamano in causa la responsabilità dei regolatori, della Consob, di Banca Italia, di come siamo informati o non informati sui prodotti economici finanziari. Allora, in questo i sei governatori, gli otto governatori del centrosinistra e due del centrodestra avevano dietro un'enorme quantità di attività sul territorio sviluppata da comitati locali contro le prospezioni e l'estrazione di petrolio e gas, e a loro volta quindi i governatori hanno assecondato questo tipo di impostazione. Io vi do solo due cifre, perché è vero che si è appena chiusa la grande conferenza a Parigi, la COP21 sul clima, ma sta di fatto che se andiamo a vedere questo dato, lo prendo dal Atlante Energetico BP, il consumo globale di energia per risorse nel 2014 su oltre 13 miliardi di tonnellate equivalente petrolio, stiamo parlando di quello planetario, l'87% viene ancora da carbone, olio e gas, quindi da fonti fossili, l'87%, cioè oltre 4 miliardi viene dal carbone, 4 miliardi da olio, dal petrolio, 3 miliardi qualcosa dal gas, poi abbiamo 0,6 miliardi di tonnellate equivalente a petrolio dal nucleare, 0,8 dall'idroelettrico, ecco qui la prima rinnovabile, 0,3 miliardi dalle altre rinnovabili. Questa percentuale, l'87-88%, nella realtà, se andiamo a vedere gli ultimi 10-15 anni, resta assolutamente uguale. C'è un rafforzamento, che però significa passare da 0,1 miliardi di tonnellate equivalente petrolio del 2005 a 0,3 in 10 anni, questo lo dico per i rinnovabilisti diversi dall'idroelettrico, che come vedete è molto contenuto. Cioè, in altre parole, apprezzo chi vuole le rinnovabili, anche se mi chiedo sempre qual è il costo degli incentivi, ma il mondo continua ad andare avanti così. Per l'87% i consumi globali di energia vengono da fonti fossili. Se andiamo a vedere l'Italia, ecco, l'Italia nel 2014, e continua a essere dipendente per il proprio fabbisogno al 90%, quindi noi abbiamo questo enorme problema che grava sulla nostra bilancia commerciale ovviamente e dei pagamenti. È vero che abbiamo diminuito i consumi nella crisi, ma di questo c'è poco da gioire, ma abbiamo una dipendenza del 90%. E a questo proposito, quindi, saremmo l'unico, sottolineo, l'unico paese al mondo che in una condizione di questo tipo vieta in maniera tassativa la ricerca, quindi le prospezioni e l'estrazione di fonti fossili. Ognuno la può pensare come vuole, secondo me è una decisione su cui riflettere. Molto, molto, molto bene. Per capire meglio numeri e opinioni, abbiamo con noi il presidente di Nomisma Energia, Davide Tabarelli. Buon pomeriggio e grazie. Speriamo che si senta meglio, perché non ho capito che cosa ci diceva. Si immagino che fosse un buon pomeriggio. Provi a ridirlo, così sentiamo se il collegamento funziona. Buongiorno e grazie. Ah, ecco, ecco, grazie a Tabarelli. E poi Piero La Corazza, che è presidente del Consiglio regionale della regione Basilicata, quindi stiamo parlando di una delle regioni in cui i consigli regionali hanno votato per partecipare. 10 regioni, abbiamo detto, al deposito dei 6 quesiti contro la legge sviluppo che modificava la norma a cui si tornerebbe adesso invece del divieto assoluto introdotto dalla Prestigiacomo. Grazie e buon pomeriggio, La Corazza, di essere con noi. Buon pomeriggio, grazie a lei per l'invito. Allora Tabarelli, lei oggi è intervenuto e ha fatto un primo bilancio di quello che ciò significherebbe per l'economia italiana, cioè? Niente, mi pare di capire che è caduta la linea di Tabarelli? È connesso ma non si sente. E quindi vado direttamente alla Corazza. Il commento, vediamo di riacchiappare Tabarelli, però, perché ovviamente il presidente di Nomisma Energia è abbastanza importante, mi sentirei inadeguato a sostituirlo. Ma caro presidente La Corazza, ieri le regioni, di fronte alla decisione del governo, intanto è una vittoria, immagino che lei la consideri così, ma è una vittoria che annulla il referendum o andate avanti? Ma se il referendum sarà annullato lo deciderà la Corte Costituzionale, che ha fissato l'udienza il 13 gennaio. Sì, gennaio quindi. Quindi è solo la Corte Costituzionale che potrà valutare, secondo la sua giurisprudenza, se l'emendamento presentato dal governo fa venir meno in linea con i tipi. Quindi è la Corte Costituzionale che esprimerà questo formalmente, ma siccome ieri per così dire, il fronte referendario si è un po' diviso, c'erano alcuni che dicevano delle 10 regioni, no, questo insomma è una grande vittoria, ok, altri dicevano no, bisogna andare avanti, la sua opinione qual è? Ma la mia opinione innanzitutto che si è trattato di un errore del governo nazionale. L'errore tanto, diciamo, è stato ieri o è stato con lo sviluppo italiano? L'errore ieri. Perché non c'è dubbio, lei ha ragione, il nostro paese ha bisogno di una strategia energetica nazionale, e sottolineo la strategia energetica nazionale contenuta nel decreto interministeriale del marzo 2013 firmato da Passera e Clini, peraltro si era votato a febbraio del 2013 e il decreto interministeriale della FEN successivo al voto alle elezioni politiche. Prevedeva faceva un ragionamento sulla base di un costo del barile, sì, che era all'incirca nel 2013 credo di intorno a 90 euro. Perché dico un errore? Perché un paese che ha necessità di energia, di basso costo, di efficienza delle sue reti, non immagina di costruire scelte senza una condivisione con i territori e con le regioni. È stato l'argomento che ho utilizzato anche nella scorsa trasmissione, certo. La Basilicata ha il più grande giacimento di estrazione petrolifera in terraferma e lo ha fatto prima del titolo quinto del 2001, cioè della riforma che stabiliva che l'energia dovesse essere materia concorrente. Questo per dire cosa? Che proprio nella regione in cui c'è il più grande giacimento di estrazione petrolifera su terraferma, in Italia, anzi in Europa, parte questa azione referendaria. E oggi l'errore che riconosce il governo, secondo me, è importante e vi è la necessità di, secondo me, di ripartire nei prossimi mesi, se la Corte Costituzionale dovesse dire che il referendum non avrà luogo, per ridefinire una strategia energetica nazionale. Ma al tavolo le regioni, i territori devono essere presenti, perché qualunque scelta, anche complessa, ma forse necessaria, deve vedere la partecipazione, la cooperazione, la leale collaborazione delle istituzioni regionali. Allora, diciamo, di quel 10% di fabbisogno energetico nazionale che riusciamo a, rispetto al 90% che importiamo, ricordo che in Basilicata, dalla Basilicata viene oltre il 70% del petrolio nazionale, delle risorse nazionali che noi riusciamo a produrre tra petrolio, olio e gas. Quindi, insomma, stiamo parlando di una parte rilevante. Io non ho mai capito molto bene come nel sud si possa rimanere così indifferenti alle royalties, per esempio, delle estrazioni, all'indotto degli occupati che queste attività rappresentano, però questa rimane una mia opinione. Vediamo se si è ristabilito il collegamento con Davide Tabarelli. Cioè, sono qua, ecco, allora, lei stamattina sul Mattino ha fatto una stima di che cosa questa scelta, ripeto, stiamo tornando al divieto assoluto praticamente, comporta per l'economia del sud e quella nazionale. Ci spiega un pochino? Ma si tratta di investimenti che sono lì pronti, chi ha avuto la fortuna, l'onore e anche insomma la tristezza di andare a vedere certi stabilimenti del sud Italia, certe fabbriche, capannoni, posti dove c'è la gente che si alza presto la mattina e va a lavorare e che ha un lavoro, uno stipendio, dove si sta cercando di creare un po' di tessuto economico e poi fa stabilità, progetti di vita, che è questa la vera sostenibilità della terra, del territorio. Ecco, lì vede che ci sono dei investimenti che andrebbero fatti, si potrebbero fare, questi sono una quantificazione, mettendo insieme Ombrina, che è il vero obiettivo di molti referendari, che però non è sud, è Abruzzo, insomma a metà strada, Vega, che è un progetto della Edison, cioè EDF, che è lì vicino in Sicilia, che poi è lì che nasce il grande, la grande confusione del 128 del 2010, poi lì c'è anche Argo Cluster, il grosso investimento, poi tutte le potenzialità che ci sono, insomma si arriva tranquillamente a una stima di 5 miliardi di investimento. 5 miliardi. 5 miliardi di investimento che molti si farebbero non al sud, ma darebbero un po' di stimolo alle imprese locali che fanno anche delle, non fanno questi mega impianti super complessi ad alto valore aggiunto che vengono fatti molti al nord Italia, nella pianura padana o a Ravenna, ma qualche cosa si sta muovendo anche al sud. In ogni caso, insomma, ad esempio l'Abruzzo è una delle province storiche dove c'è Umbrina, dove era cresciuto un tessuto industriale di ingegneri, di ingegneria, di imprese che fanno progettazione, e poi sono imprese che hanno, fanno anche molto ambiente, ripristino, che posa tubi, e lì a Pescara c'era la Schlumberger o la Becker Hughes, ci sono tuttora imprese prime in assoluto per competenza nella materia di esplorazione e sviluppo di idrocarburi, adesso probabilmente saranno destinate a venire via. Cioè, non è una fetta importantissima del nostro, però fa parte, ecco, di tutto questo contesto dell'energia. Però l'energia è ancora uno dei fattori produttivi essenziali delle moderne economie di tutto il mondo. Questa è una millenaria, non è che bisogna essere economia verde e guardare il futuro per smentire questo, perché anche il futuro occorre l'energia, sarà l'energia accesa sempre più pulita, certamente, ma come è stata più pulita negli ultimi 200 anni, perché il carbone è sempre meno utilizzato, è solo utilizzato nei grandi impianti che fanno energia elettrica. Trasporti usiamo solo derivati del petrolio e, ripeto, solo un po' di gas metano, ma fa fatica. Il petrolio conta per il 97% dei consumi della mobilità globale. Paradossalmente, se vogliamo più turismo, che fra l'altro secondo me, e questo però andrebbe approfondito, spiegato, perché è come bestemmiare dire questo, il turismo non fa bene alle economie. Il turismo è un effetto allato, può esserci, fa bene, ma non è una grande ricchezza, sono milioni di persone che si spostano. Comunque ben venga anche questo, tutto un territorio che ha un tessuto economico solido, fatto prima di tutto dall'industria, poi può attirare anche turismo, perché servono strade, servono alberghi, aeroporti che funzionano, luce elettrica per l'aria condizionata, perché i turisti non vogliono mica andare nelle capanne, oppure dove non c'è l'acqua potabile, come capita spesso in parecchi posti del nostro sud o del mondo. Ecco, allora la regola che è fondamentale e indiscutibile: prima si fanno le strutture per fare una ricchezza e solidità di servizi che vengono fatti di solito prima di tutto per l'industria, e poi viene tutto il resto. Questo, ecco, l'occasione di fare investimenti al sud è sempre stata nell'industria relativa all'energia. Ci sono posti che sono stati certamente picchiati duro, come Augusta, Gela, Priolo, e adesso certamente l'Ilva, pensiamo solo a l'Ilva, cosa rischia? L'Ilva, ma certo, ecco. Però guardi, noi abbiamo fatto una stima su Gela, è un posto contestato sotto il profilo ambientale, molto contestato. Dei suoi colleghi poche sere fa hanno fatto vedere un servizio al limite, insomma, intervistando, parla di deformazione, però lì ci si dimentica, oltre si racconta solo queste cose, ci si dimentica ad esempio che a Gela hanno lavorato circa 60.000 persone, ci sono 60.000 persone nel corso degli ultimi 40-50 anni, è stata avviata nel 62 la raffineria, un sacco di problemi, è stata aperta per decine d'anni nonostante facesse delle perdite. Certo, è stata occasione di fare anche non economia, altre cose, però è ricchezza come lo è la IPA, dove ci sono adesso 20.000, e andando indietro avranno lavorato lì, stime sommarie, più di 200.000 persone, ma non possiamo dimenticare che queste 200.000 persone sono state territorio, sono state ricchezza, sono state progetti di vita, cultura, perché mandavano i figli a scuola, che magari si sono laureati, che sono diventati ingegneri ambientali magari, e purtroppo adesso questi stanno andando via. Bene, adesso sospendiamo per un minuto, ma lei mi conferma seccamente, saremo l'unico paese al mondo ad avere un divieto di questo tipo? Sì, questo tipo nelle acque territoriali siamo l'unico al mondo, soprattutto siamo l'unico in Europa, quando abbiamo degli altri casi nel nord Europa di ricchezza straordinaria, la Norvegia è il primo paese per sviluppo umano riconosciuto dall'ONU, grazie soprattutto alle trivelle. Siamo l'unico paese al mondo, ovviamente sa, ci sono dei paesi, ad esempio nelle Seychelles si è dato permesso di esplorare, perché l'insulto grave, non è che sono così interessato, ma l'insulto è grave nei confronti di quei ragazzi, di quegli ingegneri che hanno studiato tanti anni fa, scuole di geologia, di ingegneria, che hanno formato quella gente che va a lavorare in queste imprese, che fanno delle cose straordinarie per portarci quello che noi chiediamo tutti i giorni, no, che è il gas e il petrolio. Pensiamo solo infatti alla fine che sta facendo Saipem, perché vabbè. Allora ci fermiamo un minuto, intanto... La versione di Oscar. Eccoci qui, tornati in diretta. Stiamo parlando di questo, del fatto che il governo, insomma, ieri, di fronte all'iniziativa referendaria su cui si deve pronunciare l'ammissibilità alla Corte Costituzionale a gennaio, 10 regioni che contestano lo Sviluppo Italia che riapriva alle prospezioni l'estrazione di idrocarburi entro i 22 chilometri della fascia costiera nazionale, ieri ha detto no, si torna al divieto. E da questo punto di vista abbiamo sentito il Presidente del Consiglio regionale della Basilicata, che è tra le 10 regioni, che ha sottolineato soprattutto il governo deve capire che non può imporre, cioè si deve sedere a un tavolo e lì definiremo la strategia energetica. Davide Tabarelli vi ha detto sì, siamo però l'unico paese al mondo a fare cose di questo genere, ripeto, noi importiamo il 90% del nostro fabbisogno. Sentiamo rapidamente un ascoltatore, Vittorio da Genova. Prego Vittorio, come la pensa? Buonasera, io ho delle serie perplessità perché per quanto riguarda l'estrazione petrolifera, adesso con i prezzi del petrolio che dovremmo stare intorno ai 35 dollari, non so per esempio in Italia cosa avrebbe a costare estrarre giù in Basilicata, diciamo questa cosa qui si può sapere. Certo, sentiamo subito Tabarelli cosa ci dice. Ma non lo sappiamo mai al mondo, noi abbiamo fatto le stime di 20 dollari, comunque ci stanno, comunque siamo un paese liberalizzato di mercato, economia di mercato, sono le imprese che decidono, poi da noi consumiamo il 90% del petrolio che è consumato, viene estratto da progetti decisi quando il petrolio era meno di 30 dollari. Esatto, perché poi il ciclo... Se trivelliamo tutta la Basilicata non è che arriviamo a un beneficio enorme. Allora, sentiamo Tabarelli, la stima, quella già stimata dei giacimenti tra petrolio e gas, e lo stimabile se si facessero proiezioni serie, a quanto ammonta? Guardi, giù in Basilicata abbiamo una produzione di 100.000 barili giorno, dovrebbe arrivare, che sono circa 5 milioni di tonnellate. Noi usiamo 60 milioni di tonnellate di prodotti petroliferi, perciò siamo un po' più del 10%, un po' meno, poi abbiamo altri giacimenti in giro, arriviamo intorno al 10-12%. E lì la produzione potrebbe essere raddoppiare. Lì c'è la Total che ha un progetto da 1 miliardo di euro che ha sospeso dopo i bassi prezzi, infatti, ma ha sospeso anche per i continui ritardi, perché non le fanno fare, a proposito di Taranto, un deposito, un stoccaggio giù in raffineria, perché ormai a Taranto qualsiasi progetto industriale si blocca. Sentiamo la corazza del Presidente del Consiglio regionale della Regione Basilicata proprio di questo di cui stiamo parlando, che riguarda direttamente. Secondo me nella valutazione del Presidente Tabarelli c'è un errore, che non sta ai numeri, alle necessità, agli investimenti, un errore che è dentro l'emendamento presentato dal governo alla legge di stabilità, di cui poco si discute, perché tra le modifiche che il governo nazionale attraverso l'emendamento alla legge di stabilità fa, sì, per timore dei referendum, c'è anche l'abrogazione del comma 1 bis dell'articolo 38 dello sblocca Italia, quello che prevedeva il piano. Sì. Che invece lei dice quello deve, ci deve essere. Questo è il punto, limite delle valutazioni. No, ho capito. Questo ci fa anche capire, Presidente La Corazza, che in realtà nel fronte referendario c'è chi ha un'impostazione come la sua, per semplificare. Poi c'è anche il fronte del no assoluto a tutto. Bisogna, insomma, non commettere l'errore di... Forse il governo ha esagerato ieri. Allora, lo dice anche lei da questo punto di vista. Io tornerò a parlare di questa faccenda, che ha un impatto strutturale sulle possibilità di sviluppo del nostro paese. Rispetto alle opinioni di tutti... Ma discutiamone, perché non c'era quasi niente sui giornali italiani oggi di questa scelta così importante. Grazie a Piero La Corazza, grazie a Davide Tabarelli, e mi dispiace perché non ho potuto leggere parecchi messaggi che ci avete mandato. Continuate con Radio 24, appuntamento domani alle 8:15 con me, Alessandro Milan, attenti a noi due.